Quando leggiamo una lettera dobbiamo capire quello che vuol dire l'autore e, per capire quello che sta dicendo, bisogna comprendere il senso di ciascuna parola. Come il bambino impara prima a parlare e, in seguito, comprende il significato delle parole, così anche noi credenti impariamo prima il linguaggio biblico e, solo dopo molto tempo, realizziamo il valore del linguaggio che usiamo. Proprio perché le cose sono così, spesso succede di non riuscire a comprendersi nonostante si usino le stesse parole. Vi è in brano, nella prima lettera di Giovanni, del quale per forza di cose si è costretti a comprendere due parole in esso contenute e senza le quali è proprio impossibile ricevere il messaggio trasmesso dall'Apostolo. Queste parole sono luce e tenebre. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce, e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nel tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 1 Giovanni 1:5-7. Giovanni inizia la sua lettera con una affermazione, che è un assioma. Dio è luce. In questa affermazione, egli vede il riassunto, o la sintesi, del messaggio evangelico. Infatti, egli non dice questo è un messaggio, cioè una delle tante verità, ma questo è il messaggio, cioè il centro del Vangelo. Il parola luce è per noi un termine vago, astratto, generico. Per Giovanni non lo era. Perché nell'affermare che Dio è luce, egli stava parlando dell'essenza di Dio. Giovanni non ha affermato che Dio fa luce, come potrebbe fare una lampadina. La luce di una lampadina non è parte della sua essenza, perché senza la corrente e i componenti interni, essa non può fare luce. Perciò, quando diciamo che Dio è luce, non intendiamo parlare in senso metaforico, simbolico, o allegorico, ma nel senso che l'essenza di Dio, la sua entità, la sua sostanza, la realtà di Dio è luce. Questo discorso potrebbe anche non coinvolgerci più di tanto, perché noi sappiamo che non è possibile capire Dio pienamente, per cui se non riusciamo a comprendere cosa vuol dire Dio è luce, accettiamo anche questo limite. Però Giovanni poco più avanti afferma, ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. La comunione fraterna, secondo l'Apostolo, è condizionata al camminare nella luce, quindi si è costretti a comprendere il termine luce. Cosa vuol dire allora camminare nella luce o camminare invece nelle tenebre? Inutile tentare di dare una definizione a un'espressione di 2000 anni fa. Perciò è più utile considerare cosa Giovanni volesse intendere con questo termine. In questo modo mettiamo in pratica il principio che la scrittura si interpreta con la scrittura. Possiamo chiarirci le idee leggendo nel secondo capitolo della stessa lettera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. 1 Giovanni 2, 9-11. Odiare il fratello significa essere nelle tenebre, amarlo significa camminare nella luce. Quindi, l'odio e le tenebre per Giovanni sono sinonimi. Come pure amore e luce. Se luce e amore sono sinonimi, possiamo concludere che affermare Dio è luce equivale a dire Dio è amore. Infatti è quello che Giovanni scrive al capitolo 4, versetto 6. L'amore è talmente indispensabile che Giovanni lo considera come una prova inevitabile dell'essere cristiani. Ecco cosa scrive: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. 1 Giovanni 3:10. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. 1 Giovanni 3, 14-15. Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. 1 Giovanni 4, 20-21. L'amore quindi non è facoltativo per il credente ma obbligatorio, è la quintessenza del suo essere cristiano. Ricapitolando, possiamo dire che il messaggio di Giovanni è stato 1. Dio è luce. 2. I cristiani devono camminare nella luce. 3. Camminare nella luce significa amare il fratello. 4. Chi non ama il fratello è nelle tenebre, cioè lo odia. Cosa vuol dire amare il fratello? E una domanda che non può aspettarsi una risposta semplicistica e bisogna diffidare di coloro che hanno una formula segreta. Perciò, ancora una volta, cerchiamo di vedere il pensiero dell'Apostolo Giovanni. Se l'uomo parla di amore, è perché Dio è amore, 1 Giovanni 4, 8, 4 e 16, con una precisazione però. Mentre riguardo Dio l'amore ne costituisce l'essenza, riguardo al cristiano, l'amore è qualcosa di estraneo. Infatti è scritto che l'amore è sparso nel cuore del credente per lo Spirito Santo. Romani 5, 5. Nessuno quindi si illuda di poter amare per una sua capacità intrinseca. Ma perché diciamo che Dio è amore? Da dove abbiamo capito che Dio ci ama? Dal fatto che ci ha creati? Perché godiamo di ottima salute? Perché provvede ai nostri bisogni? Perché risponde alle nostre preghiere? Per Giovanni non sono queste le ragioni. Un credente dirà che Dio è amore perché ha dato suo figlio a morire per i peccati di tutti gli uomini, ma lo stesso apostolo non la vede così. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo, affinché per mezzo di lui vivessimo. 1 Giovanni 4, 9. Anche l'apostolo Paolo dice la stessa cosa. Nella lettera ai Romani, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, Romani 5, 8. Perciò per Giovanni e Paolo, l'offerta di Dio nel dare suo figlio a morire in croce è una dimostrazione del suo amore. Se Dio nel dare suo figlio ha dimostrato il suo amore, in che cosa consiste dunque l'amore? Ecco cosa risponde Giovanni. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. E ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. 1 Giovanni 4 e 10. L'amore di Dio consiste quindi nell'averci amati per primo, nell'aver preso l'iniziativa di amarci. Dio non ha aspettato che noi lo amassimo, che noi lo cercassimo, ma Egli ha dato il suo figlio prima ancora che noi pensassimo a lui. L'amore è quindi prendere l'iniziativa di amare. Abbiamo detto che Dio è luce, che noi dobbiamo camminare nella luce. Camminare nella luce significa amare il fratello, e amare il fratello consiste nel prendere l'iniziativa di amarlo. E questo si accorda con quello che sostiene Giovanni. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri, 1 Giovanni 4 e 11. Ma questa iniziativa di amarlo, in che cosa consiste? Giovanni risponde ancora, da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, 1 Giovanni 3 e 16. Se Dio ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma cosa significa dare la nostra vita per i fratelli? Vuol dire forse morire per il prossimo? Forse anche questo, come disse Gesù, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Giovanni 15, 12, 13. Nel Getsemani Gesù ha dato una dimostrazione di questo amore quando disse ai suoi aguzzini: se cercate me lasciate andare costoro, ma se non abbiamo l'occasione di morire per qualcuno, significa che non abbiamo avuto la possibilità di dimostrare il nostro amore? La risposta è no. È più facile morire per qualcuno che vivere per lui. Perché morire è un atto che si compie una volta sola, mentre una vita vissuta per gli altri è un continuo morire. L'amore per i fratelli è un amore concreto. Giovanni scrive: se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. 1 Giovanni 3:17-18. Purtroppo certi cristiani assomigliano ad alcuni autobus, tutto pieno, esaurito. Sono talmente indaffarati nella vita che non hanno tempo per gli altri. Anche il lavoro per il Signore può essere così esteso che dimentichiamo di amare le persone. Noi non dobbiamo amare l'opera di Dio in quanto tale, ma in quanto essa rappresenta la dimostrazione che amiamo Dio. Il vero servitore è colui che vive al servizio degli altri. Si può aver raggiunto l'apice di un lavoro per Dio, ma aver fallito il vero obiettivo. Gesù fu un uomo attivissimo, ma era sempre disposto per il prossimo. L'amore per il prossimo non è perciò un sentimento, anche se produce questo. L'amore per il prossimo è composto di fatti concreti. Diversamente dobbiamo convincerci che è un amore falso. Sentimentalismo inutile. Solo con una vita al servizio del prossimo renderemo sicuri i nostri ragionamenti e saremo esauditi nelle preghiere. Qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui. Perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito, questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. 1 Giovanni 3:22-23. Giovanni condiziona l'esaudimento delle preghiere al credere in Cristo e all'amore per i fratelli. Questo spiega perché tante preghiere non sono esaudite. Diciamo a Dio di amarlo, di servirlo, e poi abbiamo dei rancori, delle amarezze. Non ci interessiamo del nostro fratello. Dopo queste riflessioni possiamo rispondere alla domanda: cosa vuol dire camminare nella luce? O amare il fratello? Significa prendere l'iniziativa di amarlo e occuparsi in modo concreto di lui. Ma occuparsi del prossimo e amarlo non significa solo agire in senso positivo o fare apprezzamenti. A volte è necessario agire anche in modo negativo. Infatti, una dimostrazione di amore può essere anche una riprensione. Ecco cosa dice la Scrittura a riguardo. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Levitico 19:17. Meglio riprensione aperta che amore nascosto. Proverbi 27:5. Chi ama ferisce ma rimane fedele, chi odia dà abbondanza di baci. Proverbi 27:6. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Efesini 4:26. L'uomo che corregge sarà, alla fine, più accetto di chi lusinga con la sua lingua. Proverbi 28:23. Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Eccetera 7:5. Per riprensione non si intende, come spesso succede, uno sfogo dell'ira o un atto di rivendicazione, ma far vedere al prossimo con tatto e gentilezza l'errore commesso o un aspetto della sua personalità che urta. Può sembrare strano, ma anche questo gesto comporta un atto di fede, perché una riprensione può provocare una rottura dei rapporti o lasciare ferite che si protraggono per anni. È più facile per il quieto vivere tacere e sorvolare su di un torto che mettere in moto una delicata questione. Però l'esperienza insegna che se non si riprende il prossimo prima o poi si arriva a odiarlo, come avverte solennemente il Dio delle Scritture. Ecco perché è bene andare a dormire senza avere dei conti in sospeso con chiunque, specialmente con il coniuge. È invece consigliabile non riprendere qualcuno quando ciò che riteniamo sbagliato, offensivo o un torto non costituisce per noi un grosso problema o una ragione di turbamento, altrimenti la vita sarebbe un continuo conflitto. Dobbiamo guardarci dall'essere i censori di Dio, anche perché chi siamo noi da giudicare il domestico altrui? Se cade o sta in piedi, è una cosa che riguarda il suo padrone. Rom 14:4. Se poi qualcuno preferisce erroneamente la pace, anziché riprendere giustamente e amorevolmente il prossimo, ricordiamoci del detto: il carattere di un uomo si conosce dai suoi nemici. Dopo queste riflessioni può sorgere un'altra domanda: come faccio a sapere se veramente amo mio fratello? In fondo tutti diciamo di amarci, eppure continuiamo ad avere dei seri e, a volte, insolubili conflitti. Ancora una volta, la risposta possiamo trovarla nella prima lettera scritta da Giovanni. Egli afferma: noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Questa affermazione non ci deve sfuggire. Se noi amiamo Dio e il prossimo, è perché l'amore di Dio ha prodotto in noi un amore di riflesso. Noi amiamo Dio soltanto perché Lui ci ha amati per primo. Quindi, se io amo il mio prossimo nel modo giusto, produrrò in lui un amore per Dio e per gli altri. Se mio fratello non mi ama, è probabile che io non lo ami nel modo conforme a giustizia. Se ti lamenti che nessuno ti ama, forse non fai abbastanza per amare gli altri. Non aspettare di essere amato. Ama e sarai amato. La Scrittura lo afferma. L'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni colpa. Proverbi 10 e 12. Chi copre gli sbagli si procura amore, ma chi sempre ritorna su disunisce gli amici. Migliori. Proverbi 17 e 9. L'unico odio di cui il credente deve vantarsi è quello del mondo. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Giovanni 15 e 18. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. 1 Giovanni 3 e 13. È possibile allora aver comunione gli uni con gli altri? La risposta è camminare nella luce, cioè nell'amore. Se ci amiamo gli uni gli altri, avremo raggiunto uno degli obiettivi più grandi che il credente possa ottenere, perché nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. 1 Giovanni 4 e 12. In definitiva, Giovanni ha detto questo: nessuno ha mai visto Dio, ma se ci amiamo gli uni gli altri, il mondo potrà vedere che Dio esiste in noi, e l'amore di Dio diventerà perfetto, cioè completo, in noi. Facendo un riassunto a ritroso di quello che abbiamo detto, possiamo affermare che, se ci amiamo gli uni e gli altri, significa che produciamo l'amore nel prossimo, significa che aiutiamo concretamente chi ci sta vicino, significa che abbiamo preso l'iniziativa di amarlo. Significa che amiamo Dio. Significa che amiamo il fratello. Significa che camminiamo nella luce. Significa che Dio è luce. Significa che Dio è amore. In questo modo abbiamo annunziato anche noi il messaggio.